In corrispondenza da Beirut con Lorenzo Trombetta, giornalista ANSA da molto tempo, insomma, lì stabile a Beirut, appunto è da lì che ci racconta molto spesso cosa sta accadendo in Siria e non solo, in tutta la regione. Ricordiamo che Lorenzo Trombetta, cioè questa è anche l'occasione per, e poi comunque se ne riparlerà anche in seguito, per presentare il libro che a breve uscirà, insomma, una sua ricerca di stampo accademico dal titolo Siria, dagli ottomani agli Assad e oltre, che uscirà appunto tra più o meno un mesetto. Lorenzo, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, approfittiamo appunto di questa tua, di questo contatto, di questa conversazione telefonica, per fare un attimo magari il punto della situazione su quello che è accaduto nell'ultima settimana in Siria. So che sei stato anche a Roma recentemente, insomma ci sono state delle dichiarazioni importanti da parte dell'establishment statunitense. Ma sì, quando è cambiato il segretario di Stato americano da Hillary Clinton a John Kerry ultimamente ha fatto capire che gli Stati Uniti intendono accelerare la loro presa di responsabilità nei confronti di alcune parti dei ribelli. Non ha parlato esplicitamente di voler donare, di inviare armi, ma ha parlato ancora di allargare le relazioni con i ribelli inviando armi, sostegni non letali, questa è l'espressione, e addirittura di fornire loro intelligence e altri tipi di sostegni non meglio precisati. Questo in precedenza non era stato formalizzato dall'amministrazione americana, che sappiamo però invece da altri canali, anche canali di stampa proprio statunitensi, indirettamente tramite altri paesi arabi e non, hanno comunque aiutato parte dei ribelli siriani inviando delle armi depositate in vecchi stock in Europa, in Croazia o in Nord Africa, in particolare quelli provenienti dalla Libia. Quindi diciamo gli Stati Uniti che sotto il tavolo da qualche mese almeno sono un po' più attivi, ufficialmente ancora non lo sono veramente, ma ecco, dalle dichiarazioni di Kerry qualcosa sembra muoversi in tal senso. Dall'altra parte lo stesso ex senatore democratico Kerry, che per anni, dal 2009 al 2011, è stato uno dei più assidui frequentatori del palazzo siriano, è andato più volte a parlare col presidente Bashar al-Assad e più volte lo ha etichettato come un riformatore, come un leader vicino al suo popolo. Ecco, lo stesso Kerry adesso, in una sua dichiarazione che ha fatto molto discutere, ha parlato di esigenza di dialogo fra le parti, ovvero fra i ribelli, fra le opposizioni siriane e il regime, e ha detto che Bashar al-Assad deve essere parte di questo dialogo. Quindi implicitamente, almeno secondo quella dichiarazione, gli Stati Uniti riconoscevano la legittimità del presidente Bashar al-Assad, perché appunto lo si invita a essere parte di un eventuale dialogo. In precedenza sia il presidente Barack Obama che il predecessore di Kerry, il segretario di Stato Hillary Clinton, avevano invece più volte detto: uno, Bashar se ne deve andare subito, presto; due, Bashar al-Assad ha perso la legittimità. Quindi ecco, anche quella dichiarazione di Kerry, che poi secondo alcuni diciamo portavoci del segretario di Stato è stata mal interpretata, o forse lui si è espresso male, però quella dichiarazione sembrava dare una svolta anche politica dal punto di vista dell'atteggiamento americano, perché appunto dopo due anni in cui le dichiarazioni di Obama e della Clinton non hanno sortito molti effetti, ovvero Bashar se ne deve andare ma Bashar al-Assad sta ancora lì, forse ecco Kerry, vecchio estimatore di Assad, forse ha un atteggiamento politico diverso, forse più realistico, ha comunque ammesso che Bashar al-Assad alla fine è parte della soluzione, non può essere soltanto parte del problema. Parallelamente però, come vi dicevo prima, dall'altra hanno ufficializzato un sostegno più significativo ai ribelli. Lorenzo, senti una cosa, secondo te questo atteggiamento, diciamo adesso, di negoziazione o comunque maggiormente diplomatico nei confronti di al-Assad è una concessione fatta ad altre forze che comunque esterne, insomma, altre potenze che rivendicano comunque un peso nella gestione della transizione siriana? Può essere un'ipotesi, nel senso che da tempo gli Stati Uniti e Russia, che poi sono i due attori che continuano a tenere il pallino del gioco in questa parte del Mediterraneo, sembrano essersi avvicinati, almeno rispetto alle posizioni diametralmente opposte del 2011 e 2012, quindi allora, non v'è un accordo scritto tra le due parti, né vi sono state recenti visite in cui i rappresentanti dei due paesi hanno lasciato intendere che sì, hanno superato le loro differenze, però ecco, vista la posizione della Russia, che è quella che sostiene il dialogo tra le due parti, dicono che la soluzione deve essere trovata soltanto dai siriani senza ingerenze esterne, eccetera eccetera, e la dichiarazione di Kerry, anche se poi appunto ha fatto un passo indietro perché hanno detto che è stato mal interpretato, forse può essere interpretata come un cercare di dare alla Russia qualcosa, cercare di mostrare agli alleati di Damasco che gli Stati Uniti sono meno intransigenti, però questa è un'ipotesi, nel senso che noi sul vediamo quello che c'è sul tavolo. Assolutamente. Quando sono venuto a Roma nei giorni scorsi, un paio di giorni, per partecipare a una conferenza organizzata dal Centro di Studi Americani, l'ospite d'onore era Friedrich Hoff, che fino al novembre 2012, diciamo fino a quando la Clinton è rimasta in carica, era il capo della Task Force Siria per il Dipartimento di Stato. Friedrich Hoff da molti anni segue il dossier siriano e forse all'interno dell'establishment americano è quello che ne sa di più di Siria contemporanea. Ho avuto modo di parlare con lui, gli ho chiesto proprio la questione di Kerry e della posizione degli Stati Uniti nei confronti della Russia. Lui ovviamente non mi ha parlato da funzionario americano, ma da ex funzionario americano, e io gli ho appunto chiesto come pensate di lavorare con i russi, come pensate di relazionarvi con Mosca, visto che insomma tutti dicono che Mosca non lascia Bashar al-Assad perché teme di perdere quello che ha da tempo in Siria, non soltanto la base navale a Tortosa, non soltanto la base aerea nel centro della Siria, ma insomma la Russia, se perdesse la Siria, rischierebbe di uscire dal Mediterraneo. E Friedrich Hoff mi ha detto: non è nella strategia americana quella di cacciare i russi dalla Siria, abbiamo rassicurato più volte i russi, siamo andati più volte a Mosca a rassicurarli chiedendoli di svolgere loro un ruolo positivo, li abbiamo rassicurati, mi ha detto proprio Hoff, quando, parlando di un periodo in cui lui era ancora in carica, quindi da questo punto di vista mi ha affermato che la politica americana fatta da lui in questo senso non intendeva escludere i russi dalla Siria, quindi lui non si spiega perché Mosca sia così, o almeno non si spiega con me, sia così intransigente nel voler mantenere Bashar al-Assad al potere. Probabilmente, questo credo io, i giochi sono molto più ampi, vanno al di là della questione siriana, appunto la Russia forse spera di ottenere in cambio domani di un abbandono di Assad, spera di ottenere altre concessioni dagli Stati Uniti su scenari completamente diversi o comunque su scenari non riguardanti direttamente la questione siriana, questo insomma fa parte un po' del solito certo. Bazar dell'alta diplomazia, però ecco, per me è stato importante avere da un protagonista della politica americana la dichiarazione che appunto gli Stati Uniti hanno rassicurato i russi che non intendono spazzarli via, sarà vero, sarà no, i russi si fidano delle parole americane, questo certo poi è tutto da vedere, però ecco, ha rivelato un retroscena importante di questi due anni di braccio di ferro sulla Siria. Certo, certo. Senti, sempre rimanendo per ora sul contesto, diciamo, geopolitico internazionale, altri due attori che hanno un peso rilevante sulla questione siriana sono naturalmente Israele e la Turchia, che fino a qualche anno fa avevano comunque una convergenza di interessi che sembra da qualche tempo, insomma, essere venuta meno. L'atteggiamento della Turchia nei confronti sia della questione curda interna che nei confronti anche appunto della transizione siriana, come lo inquadri? Ma la Turchia si sente coinvolta direttamente perché comunque la Siria fa parte per chiunque governi l'Anatolia, è una, diciamo, costituisce una profondità geografica nel Levante arabo. Ora, senza qui riprendere le teorie di chi sostiene che il governo di Erdogan si atteggia a neo-ottomano, io non lo credo. Però è naturale che, vista la posizione geografica dell'Anatolia, la Siria sia un terreno molto molto sensibile e riguarda la questione curda, visto che per circa metà della lunghezza del confine turco-siriano, circa metà di questo confine è abitato da curdi, questo complica in un certo senso le cose per Ankara. Ovviamente la questione curda non riguarda soltanto la Siria, ma riguarda l'Iran, riguarda l'Iraq, tutti e tre i paesi che confinano con Ankara. Inizialmente la Turchia ha assunto un atteggiamento molto duro nei confronti di Assad e a parole continua ad avere un atteggiamento, insomma, molto duro, insomma, non hanno mai, a differenza degli Stati Uniti, non hanno mai cambiato retorica. Sul terreno, dopo aver ospitato circa 150.000 profughi, che non è uno scherzo, anche se la Turchia, insomma, è un paese molto grande, però ecco, non ci sono stati reazioni militari o politiche che hanno cambiato veramente le sorti della rivolta siriana in Siria da parte di Ankara. Questo un po' si riflette anche nelle posizioni di moltissimi attivisti, di moltissimi siriani antiregime che si sono sentiti un po' abbandonati dalla Turchia, che nei primi mesi sembrava voler invece far cadere da sola Bashar al-Assad. La questione curda, anche questa è stata in questi 2 anni, 2 anni e qualcosa, ha avuto vari momenti. Per molto tempo i curdi di ogni affiliazione politica, perché poi al loro interno sono molto divisi, sono rimasti un po' a guardare le manifestazioni, hanno partecipato ma in modo piuttosto timido. Tra l'altro il regime siriano in quelle regioni a maggioranza curde non ha risposto con la stessa durezza con cui ha risposto nelle regioni sunnite, anche perché bisognava continuare dal punto di vista di Damasco a mostrare che il regime protegge le minoranze, anche se i curdici in Siria sono stati almeno dal 1962, quindi prima dell'arrivo degli al-Assad, sono stati sempre di fatto marginalizzati dal contesto politico e sociale. Poi successivamente il regime di al-Assad ha cercato di rispolverare le vecchie relazioni con la fazione siriana del PKK, il PKK è il Partito Lavoratori Curdi di Abdullah Öcalan, e per alcuni mesi sono anche riusciti a creare delle divisioni sia nel fronte curdo siriano, sia tra curdi, fra a quel punto uomini armati curdi e ribelli siriani, che intanto si erano armati, ribelli siriani arabi per lo più sunniti. Ci sono stati anche degli scontri piuttosto violenti che sono durati anche per settimane, sia ad Aleppo, sia a nord di Aleppo, nella regione di Afrin, a maggioranza curda, ma anche in alcuni valichi di frontiera turco-siriani, dove estremisti sunniti si sono scontrati con loro, diciamo, concittadini siriani, ma curdi. Poi qualcosa è cambiato. E in questo qualcosa Erdogan ha cercato di inserirsi, nel senso che i curdi delle varie affiliazioni hanno capito che il vento sta cambiando, non è più così favorevole al regime di al-Assad. Il governo autonomo del Kurdistan iracheno, dominato da Barzani, che comunque è un uomo vicino alla Turchia, ha offerto ai curdi siriani, alle fazioni principali di curdi siriani, un accordo. E quindi Erdogan in qualche modo ha favorito questo accordo intercurdo e questo ha disinnescato un po' la miccia che Assad aveva cercato di accendere per dividere il fronte curdo e per cercare di instigare i ribelli curdi contro i ribelli siriani arabi. Quindi a un certo punto dall'accordo di Erbil nel Kurdistan iracheno si è passati poi a un accordo di fatto anche in Siria, e i ribelli sunniti arabi e i ribelli curdi sono di fatto spartiti le zone di influenza, addirittura ormai quelle zone le controllano con pattuglie condivise, insomma si sono spartiti il territorio e anche la gestione della sicurezza, non c'è più l'attrito che c'era nei mesi precedenti. Ultima carta che Erdogan ha cercato di giocare ha accettato le aperture di Abdullah Öcalan, in carcere come sappiamo da molti anni, che però insomma ha ancora un peso politico molto molto forte nel PKK, e insieme hanno avviato, adesso siamo ancora all'inizio, bisognerà vedere se dura, ma una sorta di riconciliazione turco-curda in base a una nuova situazione politica e geopolitica nella regione. Quindi forse Erdogan, che cercava da sempre di pacificare, di avere meno problemi nella regione, e pertanto negli ultimi 2 anni è stato sbeffeggiato da tutti i suoi detrattori, perché appunto sembrava che invece di risolvere problemi ne creassi, o comunque i vari nodi si stringessero invece di sciogliersi, forse adesso con l'avvicinamento con Öcalan sembra arrivato a un punto comunque positivo. Se disinnescasse veramente la miccia curda, per Assad sarebbe un'arma in meno da usare. I curdi siriani e i curdi iracheni certo non potrebbero vivere in uno spazio amministrativo loro, autonomo, ma di fatto già oggi vivono in uno spazio, in una continuità territoriale molto stretta fra la parte curda irachena e quella curda siriana. Si attraversa il Tigri con delle imbarcazioni e si è dall'altra parte, ma è come per chi lo ha fatto e me lo ha riferito, è passare da una regione all'altra di uno stesso paese, si parla la stessa lingua, ci si sente fratelli, o almeno così nelle enunciazioni verbali tra le varie milizie, e da Erbil si può arrivare tranquillamente alla periferia di Mosul, di Aleppo, controllata dai ribelli, perché si passa da una milizia all'altra in forza anche dell'accordo con i ribelli sunniti arabi, che appunto a questo punto non hanno motivo di prendersela con i loro concittadini curdi. Questo per quanto riguarda un po' diciamo lo scenario turco-curdo-siriano nella parte nord della Siria. Ovviamente bisogna sempre tenere a mente che sono delle situazioni in movimento, e quindi è una fotografia istantanea fatta sullo ieri e sull'oggi, ma bisognerà vedere domani, visto che gli attori sono tanti e anche il fronte curdo è molto variegato e spezzettato, bisognerà vedere domani cosa succederà, bisognerà vedere se Erdogan vincerà le elezioni e insomma. Beh, ci sono sì ancora delle potrebbe parlare per tanto tempo. Sì, sempre in proposito appunto dell'opposizione interna invece, hai parlato del fronte curdo, di questa alleanza appunto con i ribelli sunniti arabi. Quello che abbiamo, cioè la difficoltà che si ha almeno dall'Italia, non potendo verificare sul campo che cosa è avvenuto negli ultimi soprattutto 2 anni, adesso in questo momento sembra che ci sia comunque una, non dico un accordo, ma comunque una definizione di competenze dal punto di vista regionale da parte dei differenti fronti dell'opposizione siriana. Però appunto vi sono anche dei conflitti latenti, insomma penso al Consiglio Nazionale Siriano dall'esterno, ma all'esercito libero appunto che si trova al nord. Potresti tu farci un attimo, se appunto sicuramente lo avrai più chiaro di noi, insomma darci un quadro dell'opposizione siriana, com'è allo stato attuale, nel senso di che tipo di battaglia portano avanti, che tipo di controllo hanno sul territorio e che posizioni differenti hanno per prospettive? Allora, innanzitutto dobbiamo ricordare a noi stessi e agli ascoltatori che i siriani sono rimasti in un coma politico per 50 anni, perché il partito Baath è arrivato al potere nel 63, addirittura prima nel 58, a più di 50 anni, perché diciamo, l'esperienza repubblicana democratica si è conclusa con l'annessione della Siria all'Egitto di Nasser nel 1958. Da allora, prima Nasser, poi il Ba'ath, poi gli al-Assad, non c'è stata più la possibilità per i siriani di fare politica, come noi la conosciamo. Quindi anche le categorie politiche che noi adoperiamo, così semplice, opposizione, maggioranza, premier, parlamento, saltano, possono essere fuorvianti per noi che le usiamo. Quindi anche in questo senso parlare di opposizioni, anzitutto ecco, parlare di opposizione è per questo motivo fuorviante, perché ci sono molti attori, quindi io mi sforzo sempre di usarlo al plurale, perché davvero parliamo di tante voci, e per questo è una fortuna, vista la situazione, insomma, ecco, visto che per tanti anni c'è stata un'unica voce di fatto in Siria, che oggi ci siano tante voci, anche litigiose, questo fa parte, è fisiologico, e devo dire, meno male che è così, insomma, sarebbe difficile il contrario, anche se spesso le potenze occidentali, noi occidentali vorremmo avere, dopo un Bashar vorremmo avere un altro nome per renderci più facile il compito, vorremmo avere un altro Rais, un'altra figurina da attaccare al posto di al-Assad, così saremo tutti più tranquilli, ma non sarà così, ed è bene che non sia così, per quelli che davvero hanno a cuore la Siria e la maturazione politica dei siriani, è bene che adesso si passi per un periodo di forte frantumazione, frammentazione e anche litigiosità, fa parte di un gioco a cui loro non sono abituati, e che è bene che si abituino per loro stessi e poi anche forse per chi li sta vicino. Quindi cercherei di ribaltare un po' la logica che spesso domina le nostre letture europocentriche, ovvero l'opposizione siriana è divisa, ecco questi non sanno fare politica, ecco questi non si sanno mettere d'accordo. È normale che non si sappiano mettere d'accordo, da 50 anni non lo sanno fare. Ricordiamo che io per esempio ho 37 anni, Anthony, tu in studio non so quanti anni hai, ma credo che poco 31, quindi siamo 31. Immagina, io e te siamo nati in un contesto dove da 20 anni non si faceva politica, quindi probabilmente anche i nostri genitori, se fossimo in Siria, non sanno cos'è la politica, o se la sanno si ricordano una politica che facevano magari i loro nonni, e loro l'hanno vista fino a 10-20 anni e poi non hanno più fatto politica. Ecco, quindi questa lunga premessa va quasi ricordata come una preghiera prima di cominciare, come il bismillah dei musulmani ogni volta che iniziano un discorso anche politico, perché cambia molto il peso delle nostre valutazioni riguardo a come giudichiamo la situazione delle opposizioni in Siria. Sicuramente, sicuramente. Ora, andiamo più sul concreto, c'è una spaccatura forte fra chi sta fuori e chi sta dentro. Questo vale sia per quanto riguarda le opposizioni politiche tradizionali, quelle diciamo che nelle nostre categorie occidentali definiremo di sinistra, marxisti, progressisti in senso lato, nasseriani, panarabisti, ex socialisti, panarabi, insomma parliamo di persone che hanno 60-70 anni, che hanno fatto politica o che hanno cercato di fare politica, ma sono stati o messi in carcere o sono stati costretti all'esilio, proprio perché appunto in Siria non si poteva fare politica. Poi c'è tutta una corrente molto più forte e maggioritaria di correnti islamiche, si va dai Fratelli Musulmani ad altri gruppi, fino a arrivare a quelli più estremisti, definiti jihadisti, perché per loro il jihad è un mezzo per imporre una volontà divina che spesso esclude tutte le altre voci che non sono in accordo con questa presunta volontà divina che loro si arrogano il diritto di interpretare sulla terra. Ecco, quindi c'è anche qui dal punto di vista delle opposizioni islamiche abbiamo diversi attori. Chi sta dentro in Siria, la Siria è una società fortemente, è una società islamica, la maggioranza della popolazione è musulmana, maggioranza tra l'altro sunnita, è una società fortemente conservatrice non vuol dire fondamentalista, tra l'altro l'Islam conservatore siriano è stato, specie quelle delle città, tradizionalmente refrattario agli estremismi, quindi al jihadismo, al salafismo, non hanno mai trovato un terreno fertile come in altri paesi arabi. I fratelli musulmani, per la loro lotta, perché un'ala estremista dei fratelli musulmani ha condotto dal 79 all'82, sono stati messi fuori legge negli anni 80 e incarcerati ed esiliati, quindi i fratelli musulmani sono una delle forze che di fatto non hanno una base all'interno, ma per questi due anni di forte violenza, di forte anche polarizzazione confessionale favorita dal regime, dalle tecniche del regime, non soltanto al 2011 ma anche nei decenni precedenti, l'estremismo religioso jihadista sta trovando molta popolarità, specie nelle zone più dimenticate dal regime, dimenticate in termini di servizi sociali, dove la gente ha davvero avuto meno da perdere, quindi è disposta a tutto ed è disposta anche a rispondere agli appelli più estremi pur di trovare una fonte di salvezza, un appiglio per andare avanti, sia nella lotta di resistenza sia nella vita quotidiana, dove manca l'elettricità, manca il pane, manca l'acqua, e quindi davvero in questo senso l'uso che fanno della religione nella sua lettura estremistica è strumentale per dominare quelle regioni e per avere un consenso nella popolazione, che però in tempo di pace, credo, non è soltanto un auspicio ma è una certezza, in tempo di pace il jihadismo, che oggi sembra così dominare le zone rurali e rurbane, ovvero le periferie delle città, quelle più depresse, in tempo di pace questo jihadismo sarà riassorbito culturalmente da un Islam conservatore. Certo, non ci saranno, non è l'Egitto degli anni 60, sicuramente avremo delle espressioni che per noi saranno, potremmo definire oscurantiste dell'Islam, ma saranno comunque autoctone, saranno comunque genuine e non saranno jihadiste. Ci sarà comunque la tendenza e l'attenzione a mantenere un rapporto il più possibile equilibrato con chi la pensa diversamente o chi prega in modo diverso, sia anche gli sciiti e le altre confessioni, a meno che non siano considerati colpevoli di aver commesso crimini di sangue, questo al di là di essere certo sunnita, sciita o di un'altra confessione. Sì, sicuramente vi è una polarizzazione. Scusami se ti interrompo, vai. Questo discorso tutto per dire che i fratelli musulmani all'esterno dominano la principale piattaforma, che si chiama Coalizione Nazionale, hai nominato il Consiglio Nazionale, ma questo è confluito a novembre nella Coalizione Nazionale, che doveva essere un modo per diluire proprio la fratellanza musulmana, ma di fatto i fratelli sono riusciti nelle ultime settimane a riprendere la guida anche della Coalizione Nazionale, che è la piattaforma però delle opposizioni in esilio. Ci sono sì dei rappresentanti di piattaforme che provengono dalla Siria, ma sono sempre più in minoranza, tra l'altro sono in forte dissenso con la decisione dei fratelli musulmani e di chi li sostiene, il Qatar in prima battuta, ma anche gli Stati Uniti, di formare un governo in esilio. Hanno nominato uno sconosciuto siro-americano, che è l'uomo di facciata dei fratelli musulmani, si chiama Hassan Hitto. Proprio sulla sua nomina si è un po' spaccata la coalizione fra le anime che stanno all'interno della Siria, che rappresentano i ribelli, anche i più jihadisti, o il fronte degli attivisti del movimento non violento, del movimento della società civile per uno Stato laico. Ecco, questi rappresentanti, molto diversi fra loro, però si sono dissociati di fatto, comunque hanno espresso un forte dissenso nei confronti dell'azione dei fratelli musulmani. Quindi in questo senso sì, sono divisi, la pensano davvero diversamente gli attori stessi che stanno all'interno della coalizione. Nel paese l'esercito libero, che ormai è un'etichetta che tutti si affibbiano e che tutti affibbiano agli altri, di fatto è soltanto ormai un cappello, come dire la resistenza, ma non è una vera e propria organizzazione, anche se loro dicono di avere un portavoce, un capo di stato maggiore, dei quadri, ma di fatto è un tentativo di scimmiottare altre esperienze di resistenza nazionale organizzata. Di fatto in Siria ci sono, in ogni località ci sono sono delle proprie milizie che cercano di difenderle nelle zone colpite dalla repressione, o nelle zone fedeli al presidente Bashar al-Assad ci sono altre milizie che cercano di difendere, di difendersi dall'attacco dei ribelli antiregime, oppure di attaccare le zone già attaccate dall'esercito governativo. Parlare di esercito libero quindi può essere anche in questo senso fuorviante, perché certo. Si pensa che da Aleppo, per esempio, che è una delle città dove i ribelli sono riusciti a compiere importanti successi militari, si può pensare che da Aleppo arriva l'ordine di avanzare da Dara, dall'estremo sud della Siria, verso Damasco, e ciò non è vero. Mm-hmm. In questo periodo si sta assistendo a un'avanzata dei ribelli siriani di Dara verso Damasco, ma ciò non ha nulla a che vedere con una strategia coordinata a livello nazionale. Quando hanno preso Raqqa, invece, nel nord-est siriano, anche lì è stata una manovra, un'azione, un fenomeno tutto locale. Qui adesso non c'è tempo per affrontare ciascuno scenario, però ecco, anche parlare di esercito libero, come parlare di opposizione, rischiamo di non capire di chi stiamo parlando, ecco. Dobbiamo sempre ragionare in termini di realtà locali diverse. La questione che mi viene in mente è poi, però, appunto, se da una parte vi sono una serie di coalizioni o comunque di organismi che forse per ottenere una maggiore legittimità o comunque a livello internazionale vengono a costituirsi, con i conseguenti equilibri che poi si spostano all'interno di questi stessi organismi, da una parte vi sono questi, dall'altra vi è appunto una come dire, vi sono delle pratiche di resistenza, vogliamo chiamarle anche in maniera differente, all'interno del paese. Quello che mi chiedo è che tipo di relazione vi può essere tra un'attività diplomatica che a livello internazionale è in continua evoluzione e un'attività interna, cioè quanta legittimità questi organismi poi avranno nel momento in cui definiranno una roadmap per appunto la transizione che veda o meno il coinvolgimento di al-Assad rispetto appunto ad una battaglia interna che comunque non sempre risponde alle stesse logiche. No, infatti il problema è questo, che la spaccatura continua e continuerà anche dopo, fino a quando dall'esterno cercheranno di imporre delle soluzioni che non sono apprezzate all'interno, ma anche perché a proporle sono persone che il fucile non l'hanno veramente imbracciato. E ormai questo fa molta differenza in Siria. Sarà difficile che quelle soluzioni politiche, anche forse condivisibili sul piano teorico, però possano essere accettate, perché a proporle sono persone che, un'espressione in voga tra i ribelli siriani è l'opposizione delle trincee e l'opposizione degli alberghi, che in italiano non rende, ma in arabo fa la rima, khanadik, la trincea, sono le trincee, il fanadik sono gli alberghi. Questo per far contrapporre appunto chi sta in trincea veramente, chi passa la vita in questi due anni a riunirsi in vari alberghi di Doha, di Istanbul, eccetera, dell'Europa. Questo continua. Per esempio, un esempio pratico: il presidente della coalizione nazionale, lo Sheikh Ahmad al-Khatib, è stato per circa un anno e mezzo in Siria ed è stato anche arrestato. Insomma, lui ha una storia di dissenso molto, molto nota, insomma, non è una persona che si è mai sporcata con il regime. Lui è uscito, diciamo, dopo un anno e mezzo, quindi ha cercato il più possibile di stare dentro. Una volta uscito, poi per varie manovre, a un certo punto si è trovato a essere nominato presidente della coalizione nazionale. Lui non è un fratello musulmano, può avere delle simpatie per l'ideologia della fratellanza musulmana o per l'ideologia, diciamo, islamica rappresentata da Erdogan. Almeno questo nei suoi scritti emerge, però non è membro di nessuna sigla, né appunto sembra di andare molto a braccetto con la struttura dei fratelli musulmani. Quando i fratelli musulmani ultimamente hanno di fatto imposto questo nuovo premier e hanno avuto il sostegno del Qatar e degli Stati Uniti, Ahmad al-Khatib ha detto: io mi dimetto. Ma io mi dimetto perché, ufficialmente ha detto, perché non arriva abbastanza sostegno dall'estero alla rivolta, ma di fatto in alcuni suoi messaggi e altre lettere poi riferite da fonti vicine a lui, il fatto è che lui ha detto: io so i ribelli, conosco i ribelli e conosco gli attivisti che stanno dentro, so che loro non vogliono un governo imposto dall'estero, tantomeno dagli Stati Uniti, che comunque vengono considerati come i grandi traditori, perché appunto democrazia, libertà, eccetera, ma continuano a lasciare morire i siriani dopo più di 2 anni. E un governo, se ci deve essere eletto, nominato dall'interno, dalla gente che oggi veramente è in Siria e cerca di resistere, non dall'esterno. Ahmad al-Khatib, una volta che è stato nominato questo premier, ha confermato le sue dimissioni. Poi in questi giorni sono in corso dei negoziati per far sì che lui ritiri le sue dimissioni. Non so, perché appunto non sono purtroppo nei circoli della coalizione, non so cosa gli sta muovendo, cosa gli stanno promettendo, se lui sta cambiando idea in cambio di qualcosa. Questo è tutto è una questione molto, molto importante, però è rivelatrice della frattura dentro fuori e del tentativo, in questo caso di Khatib, che è un ponte fra il dentro, perché è stato per molto tempo dentro e rappresenta ancora dentro, e il fuori, la coalizione nazionale, per cercare proprio di evitare che l'Occidente e chi è con l'Occidente, i fratelli musulmani, compiano l'errore di sempre, ovvero di arrogarsi il potere, di entrare a giochi fatti e di, come hanno fatto un po' in Egitto, e di assumersi un'autorità che non gli è riconosciuta dalla piazza, che dal 2011 protesta e resiste contro il regime di Assad. Questa un po' è la dinamica che abbiamo sotto gli occhi anche in queste ore, ecco. Sì, diciamo che il tentativo appunto della coalizione al quale tu accennavi è un po' anche il passaggio dal Consiglio nazionale, il suo assorbimento all'interno della coalizione è un po' indicativo anche di queste dinamiche di legittimazione esterno-interno che comunque ancora non hanno una definizione e che sono costantemente dinamiche. Senti una cosa, un'ultima domanda, purtroppo non abbiamo tantissimo tempo, visto che ci stai appunto descrivendo questa situazione da Beirut, poco si parla del Libano e della situazione attuale in Libano. Se ti va di farci appunto un attimo un quadro, sia in rapporto alla questione siriana che in riferimento insomma al più generale contesto politico e sociale libanese. Ma al Libano, il governo è caduto qualche giorno fa, e siamo in teoria in vista delle elezioni a giugno, e cioè siamo attualmente di fronte a un vuoto istituzionale che, se fosse dalle nostre parti, come tra l'altro è, sarebbe considerato molto grave. Qui in Libano gli equilibri, in questo senso dico per fortuna, si reggono non soltanto nelle istituzioni ma soprattutto fuori dalle istituzioni, quindi quando i signori della guerra e della pace decidono che non è il tempo di scatenare la guerra, come è il caso adesso, nonostante non ci sia un governo, nonostante forse non avremo nemmeno un Parlamento da giugno prossimo e il mandato del Presidente della Repubblica, Michel Suleiman, è in scadenza, non come quello italiano, ma è in scadenza nel 2014, ma ci sono le possibilità per cui si arrivi a uno stallo anche da quel punto di vista. Ecco, nonostante le istituzioni forse sembrano non esserci, in Libano la situazione regge anche, e questa è una notizia, se parliamo in termini giornalistici, regge nonostante 2 anni di guerra in Siria, nonostante circa 1 milione di profughi siriani in Libano. Il Libano è un paese piccolo come l'Abruzzo, con tutto il rispetto per l'Abruzzo, ma per far capire anche all'ascoltatore che parliamo di un territorio comunque limitato, che non è paragonabile per esempio all'Italia come Stato, che ha circa 3 milioni e 900 mila, diciamo circa 4 milioni di abitanti. 1 milione di abitanti oggi, 1 milione di siriani sono in Libano, quindi una proporzione, un quarto della popolazione oggi, dal punto di vista di molti abitanti di regioni, si sentono comunque invasi e si sente un po' questa presenza massiccia di rifugiati. Tra l'altro un paese che, per chi viene a Beirut, può sembrare un paese molto ricco, benestante, ma fuori da Beirut la povertà di molte regioni libanesi è evidente, le difficoltà anche di andare avanti per molte famiglie sono sempre più alla luce del sole. Negli ultimi anni la crisi mondiale si è fatta sentire indirettamente e poi direttamente anche qui, perché moltissimi libanesi hanno perso lavoro sia nel Golfo che in Europa che in Nord America. Insomma, una situazione economico-sociale in forte crisi, una tensione sociale anche questa molto evidente. Ci sono stati ultimamente scioperi e non è una cosa così usuale in Libano, sciopero dei dipendenti pubblici che sono andati avanti per giorni a oltranza, una tensione confessionale, comunitaria, politica sempre latente. Ecco, nonostante tutti questi fattori, il Libano tiene. Ci sono sì ogni tanto c'è qualche scontro sporadico a Tripoli, ma quelli c'erano anche prima del 2011, qualche episodio, qualche frizione fra comunità in alcune regioni, ma insomma, se il Libano viene spesso associato a guerra civile, a bombardamenti, a caos e violenza, ecco, per adesso invece nella regione è un oasi di stabilità. Sì. Sembra un po' un paradosso, però questo è quello che io registro vivendo qui sul terreno. Perfetto Lorenzo, guarda, veramente grazie mille per questa corrispondenza, ci sarà occasione naturalmente anche di approfondire successivamente le evoluzioni della questione siriana, anche perché veramente sembra non solo in continua evoluzione, ma sembra sostanzialmente che si stia formalizzando a poco un intervento diretto, che non vuol dire un'occupazione militare dall'esterno, ma un intervento diretto in termini di finanziamenti. Come dicevo appunto, formalizzando rispetto a quanto già in precedenza ventilato da altre fonti, questo può essere indicativo insomma anche dell'accelerazione che forse si avrà nei prossimi mesi in riferimento alla questione siriana. Concludo con appunto questo tuo libro che sta per uscire qui in Italia, è una ricostruzione di carattere, se ho ben capito, accademico, nel senso comunque ha un carattere scientifico, sì, abbastanza storico, marcato. Accademico, poi con una terza parte più giornalistica, più raccontata invece sugli ultimi due anni. Ok, quindi continui anche nel senso nell'analisi della rivolta o comunque del conflitto attualmente in corso. Questo infatti volevo sapere, poi magari ci sarà occasione anche dai microfoni di questa radio di parlarne per una volta discutere insomma del testo e delle ipotesi di lavoro. Io intanto ti ringrazio e spero insomma di risentirti a breve per magari aggiornamenti se tu sei disponibile.